Yeah, check mic. Check my 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Check my 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Rappo con il cazzo in mano, come un afghano. C'ho l'animo pieno di dolori, scopo nella mente. Scopami anche il cazzo, quindi, se no divento deficiente. Voglio emozioni che mi sovrastino, questa vita è uno spasmo. Rimango qui come un orgasmo in fase di atterraggio, dopo un lungo viaggio. Non sono mica Paolo Villaggio, cosa hai capito? Io punto al mito, punto a essere il nuovo Baudelaire. Questa erba, queste lemon bud, sprizza più che un caffè di Illy. Questa lemon bud, sprizza più di un caffè di Illy. Non vendo il culo neanche a te, vorrei diventare più ricco di te, più grande di te, più alto di te. E non sei che una brutta copia di me, soltanto con un capione più esile. La mia è un dolore impossibile che ho sofferto. Ora scrivo di questa cosa, sono così divo che questa cosa che scrivo rimarrà per sempre in un inciso nel mio cuore deciso. Laura, penso a te, penso a tutte quelle che mi son perso per queste money cash che avevo in mente di fare, invece mi hanno solo rubato tempo. Questo pensiero vuole tornare a vedere un lampo e un flash di luce. Rimango qui che bruciano le sfiducie, persino con mie fra vorrei avere una metrica che possa descrivere ogni mio dolore, ogni mio amore perfettamente, per farti capire che siamo fatti l'uno per l'altro e mica distante. Vorrei qualcosa tra le mani gigante e non solo esili briciole che rimangono ridicole davanti all'oro dei potenti. Vorrei fare senza guanti a botte con il mondo. Venite, venite, andremo assieme a fondo. Vi porterò per le case dell'oblio che ho dentro, mio Dio. Scrivo come se fossi un Dio. Dentro di me le mie metriche si sommano, si moltiplicano, affondano. Manco battaglia spaziale, sei nella casella A1 bomba, nella casella A2 a bomba, nella casella 3 affonda. La tua nave sparo la cieca, eppure ti prendo magistrale. E non dire poi che non ti ho ferito, che non ti ho fatto male. Cos'è? Non hai digerito questa metrica, ho l'udito di un cane, di un chihuahua che cammina per le strade. L'ho fatto, non mi ha mai tradito.